Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti all'ascolto di un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa, dallo studio di Bruxelles. Michele è in regia. Buonasera Michele, grazie del supporto. In collegamento Buonasera. Alessandra. Buonasera Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera Michele, nostri amici radioascoltatori. Dunque, cari radioascoltatori, passo subito ad introdurre il tema di questa sera. Giro di Boa, come sempre, al passo con l'attualità. Ci sono stati altri 3 sbarchi la notte scorsa a Lampedusa. 151 migranti hanno raggiunto l'isola provenienti dalla Tunisia. Nella giornata di mercoledì erano stati 500. Il governo italiano discute i termini di una missione umanitaria per la Tunisia. E intanto in Libia continuano gli scontri tra gli insorti e le truppe fedeli al colonnello Gheddafi. Il procuratore della Corte Penale Internazionale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per crimini contro l'umanità in Libia. E intanto è diventato operativo il blocco dei beni dei 6 principali componenti della famiglia Gheddafi e di 20 stretti collaboratori del regime libico, blocco che è stato deciso dall'Unione Europea. Si parla anche di una possibile no-fly zone sulla Libia. Cercheremo questa sera, con l'aiuto dei nostri ospiti, di fare il punto della situazione a Lampedusa e di quanto sta avvenendo in Libia. Dopo la caduta di Ben Ali in Tunisia e di Mubarak in Egitto, è forse l'ora del colonnello Gheddafi? Bene Annalisa, ne parliamo questa sera con il primo ospite che è già in collegamento con noi, Domenico Affinito. Domenico, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera, grazie mille per aver accettato di essere nostro ospite. Domenico è giornalista per la testata del Corriere Online, Corriere.it, nonché vicepresidente di Reporter Sans Frontières Italia. Si occupa prevalente di paesi islamici ed è inviato a Lampedusa ormai da una settimana. Senza dubbio dunque un testimone attento di quello che sta succedendo sulla piccola isola italiana nel mezzo del Mediterraneo, che dista poco più di 100 chilometri dal più vicino porto tunisino. Dunque Domenico, subito una prima domanda. Quanti sbarchi ci sono stati oggi e quanti ce ne sono previsti per la nottata serata di oggi? Allora, sono stati, oggi in realtà solo uno, ma non è stato uno sbarco, è stato un salvataggio umanitario, perché una nave italiana è andata a prendere una trentina, 32 persone che erano a bordo di un barcone che era in avaria. Diciamo che dalla notte tra il primo e il 2 marzo, cioè in poco più di 36-48 ore, ci sono stati 10 sbarchi, uno a Lampedusa e 9 a Lampedusa, per un totale di 712 persone. Quindi diciamo che il numero nel giro di 48 ore è abbastanza consistente. Consistente però la situazione si può definire tranquillamente sotto controllo, nel senso che la macchina logistica sta funzionando a pieno regime, per cui le persone arrivano, vengono accolte nel centro di primo soccorso e accoglienza, però poi che ha una capienza massima di 850 persone, però poi contemporaneamente una serie di migranti vengono spostati o via nave, quando la nave c'è, perché dipende dalle condizioni del mare e dipende anche, non arriva tutti i giorni ovviamente, essendo, come avete voi ricordato, Lampedusa molto lontano, o via aereo, o i charter vengono spostati nella penisola, in Italia. Quindi la macchina diciamo logistica però sta funzionando abbastanza bene, a differenza dei primissimi giorni, quando l'ondata dei migranti sull'isola aveva colto di sorpresa le stesse istituzioni. C'erano pochissimi carabinieri, pochissime forze dell'ordine, il centro di primo soccorso accoglienza era chiuso. Domenico, ha parlato del centro di primo soccorso. Io volevo semplicemente dare qualche dato, perché credo che la quantità di immigrati a Lampedusa ha senso nel momento che li si metta nel contesto. Lampedusa e Linosa hanno una superficie di poco più di 26 km quadrati, le due isole insieme, e i residenti a Lampedusa, se guardiamo i dati Istat del 2010, sono poco più di 6.000 abitanti per quanto riguarda il comune appunto di Lampedusa e Linosa. Dunque le cifre che hai dato tu sono cifre importanti, che possono destabilizzare questa piccola comunità. Come dicevo inizialmente, il centro di accoglienza, qual è la capacità massima del centro di accoglienza e ce ne sono più di uno? No, c'è solo un centro di accoglienza a in realtà una realtà molto piccola. Voi dovete contare che ci sono 6.000 abitanti a Lampedusa e poco più di 300 a Linosa, per cui Linosa è assolutamente piccolina come realtà, anche come numero di abitanti. Il centro di primo soccorso e accoglienza è a Lampedusa ed è l'unico. È vero che i numeri sono importanti, però bisogna anche considerare che in realtà il centro ha una capienza massima di 850 persone, ma ne ha ospitate fino a più di 2000. Nel 2009 c'era stata anche una rivolta quando erano tantissimi nel centro, adesso hanno adottato un meccanismo leggermente diverso. Quando i numeri superano la capienza massima, il direttore, in accordo col questore, tiene aperto il centro, come ha fatto ultimamente, lasciando la possibilità ai migranti di uscire, andare in paese, e questa è stata una grande valvola di decompressione rispetto alle problematiche che potevano esserci per avere tante persone all'interno di un'unica struttura chiusa. Il centro ne ospita 850, ma per lo spazio che c'è, con i tendoni, con una serie di strutture emergenziali, può ospitarne fino a 2000-2005, ovviamente si tratta appunto di un'emergenza, deve funzionare bene, cosa che sta facendo in queste ore, speriamo continui a farlo, perché sennò la situazione diventa difficile da gestire, il meccanismo della logistica, cioè il fatto che Lampedusa è, Henry De Luca ha scritto, il faro d'Italia, no? Il faro avanzato d'Italia, è quasi in terra africana, è più vicino all'Africa che all'Italia, è un punto in cui arrivare, in cui approdare, è uno degli approdi più facili per chi arriva dall'Africa, per cui è sicuramente per questioni geografiche, fisiche, un punto d'arrivo. Quindi questa è una situazione che non si può cambiare, non si può modificare, si può gestire. E quindi da qui il fatto di cercare il più possibile di avere una macchina logistica che funziona meglio. Io ho fatto una domanda in contratto di direttore del centro, gli ho chiesto: ma voi avete pensato a quanti ne potete gestire al massimo, come punta massima? E lui mi ha detto 4.000. 4.000 anche in un giorno solo. Il problema è che entro 24 ore devono essere spostati, perché sennò poi non c'è fisicamente la possibilità di tenerli sull'isola. Quindi è tutto un problema di organizzazione, oltre che di numeri, cioè è più che altro un problema di organizzazione più che di numeri. Domenico, ti vorrei chiedere, ma tra gli immigrati arrivati finora a Lampedusa ci sono persone provenienti dalla Libia o dall'Egitto, o sono, non lo so, principalmente immigrati dalla Tunisia? L'Italia, come sappiamo, la settimana scorsa ha richiesto aiuto all'Unione Europea nel corso di una riunione dei ministri dell'interno qui a Bruxelles. Il ministro degli esteri Frattini ha parlato di un possibile flusso di 300.000 immigrati dalla Libia all'Italia. Ecco, ti vorrei chiedere chi sono coloro che stanno arrivando a Lampedusa e se ci si sta preparando ad un possibile flusso migratorio di maggiori dimensioni. Allora, le persone che sono arrivate a Lampedusa, e anche qui non lo dico io, è una conferma, perché ovviamente io ho intervistato una serie di persone, di migranti che erano per in giro per Lampedusa, eccetera, però ho i dati che mi confortano su questo dell'UNHCR. Le persone arrivate a Lampedusa dalla prima ondata dei 6.000, due o tre settimane fa ormai, sono tutti, quasi tutti, tunisini molto giovani, cioè o minorenni, una piccola parte, o comunque sotto i 30 anni, pochissime le donne, qualche abitante del Centrafrica, qualche cittadino del Centrafrica, della zona centrale dell'Africa, e basta. Non ci sono libici, non ci sono egiziani. Questa è la prima parte, che è statistica, da cronaca. L'altra parte invece, ed è una considerazione che faccio io, non credo che arriveranno libici. La Libia è un paese ricco, è il paese che è il quarto produttore mondiale di petrolio, è un paese nel quale ci sono pochissimi abitanti, sono 3 milioni e passa e poco più i libici di nazionalità libica, poi il paese ospita molte più persone perché ci lavorano sudanesi, ci lavorano congolesi, eccetera. Però gli abitanti libici sono pochi. I libici hanno sempre ricevuto da Gheddafi delle sovvenzioni per famiglia grazie ai petrodollari. Lui ha controllato così 41 anni il potere. Ora c'è sicuramente un problema di scontro oggi civile, di guerra in Libia, ma c'è sicuramente la possibilità di spartirsi potere, di gestire dei potentati economici, quindi è difficile che un libico parta dalla Libia e venga qua o scappi in un altro paese, rimarrà molto probabilmente nel suo paese cercando di guadagnare il potere, di conquistare una fetta di potere, visto che adesso appunto c'è questa difficoltà del regime di Gheddafi. Più difficile che arrivi un egiziano, perché l'Egitto è molto lontano da qua, un egiziano dovrebbe attraversare la Libia, una Libia nella quale per la metà della parte, dopo tutta la zona costiera della Tripolitania, si continua a combattere, per cui con difficoltà anche enormi. Quelli che arrivano sono tunisini e sono cittadini della zona centrale dell'Africa. Le cifre, le stime. Frontex, qui è presente uno di portavoce di Frontex, loro sostengono di non aver mai avuto, mai dato cifre di 1,5 milioni, 1 milione di persone, come è stato scritto da alcuni giornali. Il governo italiano ha parlato di 200-300 mila possibili profughi. Io non lo so, però credo una cosa, credo che finché in Libia ci sarà una situazione di guerra, sarà molto difficile che le persone della zona centrale dell'Africa, della zona magrebina, della zona subsahariana cercheranno di varcare il deserto per arrivare a una zona di guerra e da lì intraprendere un eventuale viaggio verso l'Italia. Troppi ostacoli. Succedeva prima, quando noi avevamo un accordo con la Libia bilaterale, che le persone cercavano di attraversare il deserto prendendosi tutti i rischi che comporta l'attraversamento del Sahara, per poi partire dalla Libia e arrivare in qualche modo in Italia. Adesso c'è una zona di guerra, si sta combattendo, questo farà sicuramente da tappo. Finché non ci sarà una situazione tranquilla, è difficile che questa situazione possa essere sfruttata, un vuoto di potere possa essere sfruttato per attraversare il Mediterraneo e venire verso Lampedusa o comunque verso le coste dell'Italia. Ci potrà essere un rischio, però io non riesco a quantificarlo, non lo so se saranno 10.000, 20.000, 100.000, 300.000 come dice Maroni. Ci sarà un problema quando ci sarà tra la fine delle ostilità in Libia e l'insediamento di un nuovo potere. Ecco, quella forse è la finestra che potrà essere sfruttata dai cittadini di altri paesi per attraversare la Libia e cercare di arrivare in Italia, però tutto molto ipotetico. Va tenuto conto che Domenico, niente, siamo arrivati in chiusura dal tempo che possiamo dedicare a Lampedusa, dunque volevamo ringraziarti per il tuo prezioso contributo e ovviamente augurarti buon lavoro e buona fortuna su questa magnifica isola. Grazie, magari in condizioni migliori, chi lo sa. Speriamo. Grazie Domenico. Perché è molto bello, vale la pena invece fare le vacanze, questo lo dico in modo assolutamente oggettivo. Hai altre domande dallo studio? No, nessun'altra domanda, vorrei ringraziare anch'io Domenico per il suo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e speriamo ovviamente di riaverlo in futuro ai nostri microfoni. Grazie, buon lavoro. Ascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Con il nostro primo ospite di questa sera abbiamo fatto il punto della situazione a Lampedusa, degli sbarchi che si stanno verificando. Continueremo a parlare, continueremo ora la trasmissione parlando di Libia, dove proseguono gli scontri tra gli insorti e le truppe fedeli al colonnello Gheddafi. Si parla di una possibile no-fly zone sulla Libia, è diventato operativo il blocco dei beni di 6 principali componenti della famiglia Gheddafi e di 20 stretti collaboratori del regime libico, blocco deciso dall'Unione Europea, e il procuratore della Corte Penale Internazionale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per crimini contro l'umanità in Libia. Quindi dopo gli eventi in Tunisia, in Egitto, forse ora è la volta del colonnello Gheddafi, e ne parliamo questa sera con i nostri due ospiti. Sì, esatto, Annalisa, due ospiti che sono già in collegamento con noi. Il primo è Antonio Ferrari. Antonio, ci sei? Sono qua. Buonasera, grazie mille per essere in trasmissione con noi. Antonio ormai è un amico di Giro di Boa, come i nostri amici e gli ascoltatori sapranno, è giornalista, è stato per più di 30 anni inviato dal Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente, attualmente editorialista da Atene e tiene ogni settimana la videorubrica su Corriere.it che si intitola Voci dal Vicino Oriente. Il secondo ospite di questa sera è Gianandrea Gaiani. Gianandrea, ci sei? Buonasera. Sì, buonasera agli ascoltatori. Buonasera, grazie mille anche a te per intervenire con noi questa sera. Gianandrea è direttore del web magazine di politica e analisi militare che si chiama Analisi Difesa e collaboratore di numerosi giornali, tra cui Il Sole 24 Ore e Panorama. Gianandrea ha seguito sul campo parecchi conflitti degli ultimi 20 anni e ha scritto il libro Iraq, Afghanistan, Guerre di Pace Italiane. Annalisa, è una prima domanda dallo studio? Sì, una prima domanda dallo studio, vorrei ritornare a quanto dicevo prima nell'introduzione, si parla di no-fly zone sulla Libia, vorrei chiedere ad entrambi i nostri ospiti se vedono questa possibilità come reale, chi dovrebbe appoggiarla, chi dovrebbe istituirla, la NATO per esempio, ecco, vorrei chiedere ad entrambi che cosa pensano di questa possibilità. Gianandrea, magari vuoi cominciare tu? Sì, beh, la no-fly zone all'inizio è stata nei giorni scorsi caldeggiata soprattutto dalla Casa Bianca e da Downing Street, quindi dagli americani e dai britannici. Poi nelle ultime ore ci si è un po' raffreddati su questa ipotesi, un po' perché gli stessi americani, il Pentagono, hanno fatto i conti su quanto costerebbe anche in termini economici e finanziari un impegno militare del genere quando gli americani sono ancora impegnati in Iraq e soprattutto in Afghanistan. E poi c'è anche una forte opposizione da parte della Cina, della Russia, della Turchia e la stessa Francia, quindi insomma non c'è una grande convinzione. La NATO ha detto noi non stiamo pensando di intervenire in Libia, anche se facciamo piani anche in questo senso, perché ovviamente la NATO pianifica su tutto il possibile, ma le difficoltà ad attuare la no-fly zone sono soprattutto politiche e anche di ordine pratico, perché ci vorrebbe un po' qualche giorno per attuarla, per attivarla, e dovrebbe servire a colpire i velivoli di Gheddafi che decollando vanno poi ad attaccare le postazioni dei ribelli. Tra l'altro l'aviazione libica non ha una grande capacità militare e non sembra decisiva neppure nel conflitto in corso adesso che con i ribelli, che sembra anzi essere in una fase di stallo. Antonio? Ma sì, anch'io sono d'accordo, no fly zone, possiamo giocare con le parole, però significa guerra, cioè significa guerra perché significa noi siamo pronti a battere qualsiasi velivolo che bypassi, sorpassi, solchi i cieli che sono appunto all'interno di questa no-fly zone. Questo è il primo punto. Il secondo punto, secondo me, è dovuto anche, nonostante le misure che sono state prese, che sono importanti, a una certa sorta di confusione che sta arrivando dalla Libia. Io credo che oggi il tentativo sia quello, da parte dei governativi, dei fedeli di Gheddafi, di far capire che ci sono state tremende esagerazioni, e da parte degli altri invece di dire il contrario, che Gheddafi sta cercando di mentire. Io propendo per la seconda ipotesi, Gheddafi è un furbacchione che conosciamo bene da anni, e quindi è chiaro che giocando su più tavoli e creando molta confusione riesce anche a confondere quelli che dovrebbero decidere forse in maniera più determinata. Come diceva prima il collega, io credo che nessuno si voglia più impelagare e lasciar coinvolgere in una guerra, visti i risultati, devo dire, modesti se non disastrosi degli americani in Iraq, e soprattutto visto che l'impegno internazionale era concentrato fino a poco tempo fa sull'Afghanistan e lo è ancora. Quindi lasciarsi coinvolgere in una guerra con un dittatore particolarmente infido come Gheddafi, sarebbe veramente pericoloso, anche perché Gheddafi ha i mezzi e soprattutto il denaro per corrompere, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Non è l'Egitto, 80 milioni di abitanti e sostanzialmente un paese povero, la Libia ne ha meno di 6 milioni, e se ci fosse una maggiore e più equa distribuzione sarebbe un paese, non dico benestante, ma quantomeno ricco. In Egitto abbiamo assistito durante i giorni della protesta di Piazza Tahrir ad un esemplare ruolo dell'esercito, che fin dai primi giorni si è schierato dalla parte dei rivoluzionari senza sparare sulla folla. Che ruolo ha l'esercito in Libia ora, e soprattutto esiste un esercito regolare oppure esistono solo delle milizie che sono fedeli al colonnello? Si è poi parlato ovviamente anche dei presunti mercenari dei paesi del centro Africa. Questi sono solo presunti o ci sono veramente, e se sì, in che misura sono attori di questa rivoluzione? Antonio? Dunque, diciamo allora per tutto due cose. Parliamo delle forze armate, e tra l'altro prima come sul detto non sarebbe ma ricca, ma quantomeno benestante, con la popolazione libica. No, volevo dire questo, da un punto di vista diciamo del dopo, che è quello che più preoccupa non solo noi, ma tutti gli osservatori e anche le centrali internazionali, l'Egitto e la Tunisia, con tutte le difficoltà che stiamo vedendo, perché le rivoluzioni di popoli sono molto, molto piacevoli e eccitano la fantasia e l'entusiasmo, però poi bisogna vedere cosa succede dopo e chi mette il cappello sopra. Ora, però, in Egitto e in Tunisia una strada era indicata. In Libia a cosa assistiamo? Assistiamo, al di là della confusione di cui parlavamo prima, ad un fenomeno davvero molto particolare, ma anche scontato, cioè la sfiducia totale o parziale e comunque molto avanzata nei confronti delle forze armate. Perché? Perché ci sono stati cambi diciamo di posizione dall'oggi al domani, è accaduto in diplomazia e è accaduto anche nelle forze armate, e quindi questo ha creato confusione nella confusione, e in fondo l'idea che dopo questo signore, questo dittatore, ci sia un pericolosissimo vuoto, e questo è il primo punto che dobbiamo tenere in considerazione per ogni valutazione. I mercenari, ma si sa che Gheddafi, questo è un dato di fatto, Gheddafi ha anche questo ruolo di presidente dell'Unione Africana e ha rapporti molto particolari con molti paesi, soprattutto quelli più dittatoriali dell'Africa. E che Gheddafi si sia servito di personaggi, diciamo, come dire, reclutati abbastanza disinvoltamente in svariati paesi, comprese le sue guardie del corpo, insomma, questo è un fatto risaputo. Quindi è sicuramente vero che quantomeno un certo numero di mercenari sia stato assoldato dal dittatore. Poi bisogna vedere quanti, bisogna vedere che ruolo, fino a che punto sono stati in grado così di reverse, di cambiare le sorti di una battaglia che almeno nei primi giorni sembrava segnata. Negli ultimi giorni invece assistiamo a una ripresa dei bombardamenti, quindi a una ripresa della forza da parte dei governativi, e queste sono le incognite che io credo ci impongano più di una riflessione. Gianandrea, che ruolo ha l'esercito, le forze armate in Libia? L'esercito, Gheddafi ha sempre tenuto l'esercito a basso profilo, non a caso pochi anni dopo il suo golpe nel 69 costituì i comitati popolari, che erano e che sono una milizia che spesso ha armamenti più moderni a disposizione di quelli che ha l'esercito. Il motivo è semplice, perché la Libia è un paese che è basato socialmente sulle tribù, e anche i reparti militari, l'arruolamento è fatto su base tribale, i reparti che si sono ammutinati in Cirenaica nei giorni scorsi avevano comandanti e soprattutto anche soldati che appartenevano alle tribù della Cirenaica che contestano da sempre Gheddafi e hanno colto questa occasione per ammutinarsi. Attenzione però, perché i soldati che si sono rifiutati di sparare sulla folla, di obbedire agli ordini di Gheddafi e che poi hanno aperto le caserme distribuendo le armi al popolo, come si è detto, non tutti sono rimasti in uniforme e sono pronti a combattere contro i loro commilitoni che invece sono rimasti dalla parte del colonnello. E moltissimi sono tornati a casa, hanno tolto l'uniforme e si hanno raggiunto casa loro. E quindi oggi la gran parte dei combattenti, dei rivoltosi, sono ragazzi che hanno avuto pochi giorni di addestramento, guidati da qualche ufficiale e sottufficiale dell'esercito, e sono loro stessi a dirlo, i comunicati da Bengasi, con i quali hanno chiesto un aiuto militare internazionale contro Gheddafi, in questi comunicati dicono chiaramente: noi non siamo forti come Gheddafi, abbiamo dei soldati che stiamo dei ragazzi che stiamo addestrando in questi giorni, e quindi il problema militare si porrà molto presto per i rivoltosi in assenza di un appoggio esterno. I mercenari, io farei attenzione, perché io intendo, quando parlo di mercenari, penso sempre a dei professionisti della guerra, capaci di condurre operazioni ad ampio respiro, capaci di addestrare. Gheddafi, gente professionale, un po' ne ha avuta negli anni scorsi, erano per lo più serbi, e con essi 12 anni fa spazzò via gli estremisti islamici dal Jebel el-Akhdar, dalle zone delle colline vicino a Bengasi. Pare che qualcuno di questi sia ancora in Libia, ma la gran parte della sua manovalanza, io preferisco chiamarla così, sono dei disperati, arruolati nei paesi più poveri del Sahel. Forse c'è qualcuno che viene anche dallo Zimbabwe, appunto uno dei paesi dittatoriali africani che sostiene il colonnello, gli ha anche offerto asilo, e nel caso dovesse lasciare Tripoli. Ecco, questa manovalanza di basso livello è utile per andare a sprangare qualcuno nelle strade o anche a sparare sulla gente, lo hanno fatto nei primi giorni della rivolta, però non sono dei professionisti, e lo si è visto quando a decine sono stati catturati, e spesso erano ragazzini di 16 anni, di 18 anni, assolutamente privi di esperienza di combattimento. Manovalanza da carne da cannone da buttare per pochi dollari nel calderone per cercare di fermare questa rivolta. Vorrei parlare del ruolo dell'Italia. Questa è una crisi che sicuramente ha posto il nostro paese in prima linea, siamo molto esposti ovviamente per gli interessi economici che abbiamo in Libia, per gli interessi di sicurezza, per i rapporti che l'Italia ha da sempre coltivato con la Libia. Ecco, vorrei chiedere ad entrambi come valutate il ruolo che ha giocato l'Italia finora e la gestione della crisi libica da parte del governo Berlusconi. Antonio? I rapporti con la Libia, come sappiamo, vanno ben al di là del governo Berlusconi, ci sono sempre stati, dai tempi di Mattei ai tempi di Moro, parlo dei rapporti con la Libia. È chiaro che quando è arrivato Gheddafi c'è stata una forte corrente di simpatia nei confronti di questo tenente allora, poi diventato colonnello, mai voluto diventare generale proprio perché colonnello era anche il leader egiziano Nasser, che era uno dei punti di riferimento di Gheddafi. Comunque, colpo di Stato senza sparare un colpo, quindi uomo che cerca di ridare dignità a un popolo che era stato un popolo umiliato durante il regime coloniale. I rapporti quindi sono sempre stati calorosi da una parte e difficili dall'altra. Gheddafi ha sempre usato, soprattutto con l'Italia, un doppio atteggiamento. Da una parte, così per ragioni propagandistiche, accuse di ogni genere, colonialisti, ci hanno fatto di tutto, dicendo anche il vero, la questione di Omar al-Mukhtar e di quello che gli è stato fatto durante il fascismo dal generale maresciallo Graziani, è qualcosa di orrendo, e quindi Gheddafi aveva probabilmente ragione da questo punto di vista, però mentre dall'altra, da una parte pretendeva di qua e di là, dall'altra faceva affari di ogni genere. Oggi il problema non è soltanto il rapporto che noi abbiamo con la Libia, rapporto di carattere economico, di business, insomma. Noi compriamo dalla Libia il petrolio, che è quasi a chilometro zero, quindi molto vicino alle nostre coste, ci costa poco il trasporto, compriamo una percentuale di gas, abbiamo degli imponenti lavori pubblici che dovevano essere garantiti da quel trattato di amicizia che tra l'altro pareva era molto oneroso per noi, ma dall'altra parte dava lavoro a un sacco di imprese italiane. Però abbiamo anche diciamo qualcosa di ritorno, tutti gli investimenti che Gheddafi e i suoi hanno nel nostro paese e sono investimenti importanti. Ecco perché i rapporti sono molto delicati da tenere in seria considerazione. Io credo che il governo Berlusconi in qualche misura abbia proseguito quella linea con degli eccessi, permettendo al colonnello di fare cose che nessun altro leader politico italiano aveva permesso al colonnello di fare. Cioè, penso che se ci fosse stato, come scriveva stamattina Sergio Romano sul Corriere, al suo posto Andreotti, beh, si sarebbe comportato sia pure pro Gheddafi, ma in maniera molto ma molto più prudente. Ecco, il fatto di averlo accolto, di avergli permesso di fare tutte le bizze che voleva fare, addirittura i corsi di Corano per le ragazze in un momento tra l'altro anche molto particolare del nostro paese, beh, insomma, ha reso, come dire, quasi burlesco un rapporto che, tenendo Gheddafi a debita distanza, poteva essere un rapporto comunque importante. Ecco, Gheddafi andava, come dire, controllato. Io volevo raccontare soltanto un piccolo episodio di comportamento con Gheddafi che ho conosciuto personalmente e ci siamo incontrati alcune volte, e che riguarda Hussein di Giordania. Una volta il sovrano, ora scomparso, Gheddafi stava attraversando così il suo spazio aereo con il suo aereo, dice: scendete, vado a salutare il mio amico Hussein. E Hussein fece rispondere: è inutile che scenda perché io non lo voglio vedere, se mi vuole vedere consulti, chiami la mia ambasciata e organizzi una visita di Stato. Ecco, così in qualche misura doveva essere, secondo me, trattato Gheddafi, pur avendo, ripeto, dei rapporti dei quali probabilmente non possiamo fare a meno. Gianandrea? Beh, inutile ricordare che l'Italia, a differenza di altri paesi, ha subito spesso i ricatti di Gheddafi. Il poterci mandare migliaia di clandestini era un'arma di pressione molto importante, e il fatto che l'Italia è a tiro di missile, come ricordiamo per il lancio dei due Scud contro Lampedusa della Libia, ci ha sempre esposto in qualche modo. Certo, la politica estera italiana non è stata mai spavalda e non lo è stata di certo con la Libia, e su questo sono d'accordo. Beh, però in quest'ultima crisi l'Italia ha dimostrato di poter, nel giro di una settimana, di cambiare completamente atteggiamento. Quando è scoppiata la rivolta, la diplomazia italiana invitava i paesi della UE a non interferire con la crisi interna alla Libia. Nel giro di una settimana i nostri ministri, Frattini, La Russa, parlano di mantenere alta la pressione su Gheddafi, e addirittura abbiamo sospeso un trattato che, come ricordava prima, ci è costato molto anche riuscire a firmarlo e ratificarlo, per avere un po' di respiro quantomeno sul fronte dei clandestini, dell'arrivo di immigrati clandestini, ma anche per stipulare importanti contratti con la Libia. Quindi la mutevolezza della politica estera italiana tradizionale con la Libia in questi ultimi giorni si è riconfermata tale. Però bisogna dire anche questo, che l'Italia non è l'unico paese che deve un po' vergognarsi per l'atteggiamento che ha avuto e che ha oggi, il cambiamento d'atteggiamento nei confronti di Gheddafi e del suo regime, perché la Francia l'anno scorso ha accolto Sarkozy, ha ospitato 5 giorni Gheddafi a Parigi con l'obiettivo di vendergli, tra le tante cose, anche delle armi, e poi sembra che Gheddafi abbia preferito le armi russe, che più pratiche, forse anche meno costose. E la Gran Bretagna ha liberato il responsabile dell'attentato di Lockerbie, l'ha liberato dal carcere e l'ha riportato in Libia in cambio di concessioni petrolifere. Gli Stati Uniti, solo io leggevo l'altro giorno, ho ritrovato un documento dell'anno scorso, di un anno fa, nel quale un portavoce, Crowley, del Dipartimento di Stato americano, aveva commentato il discorso di Gheddafi alle Nazioni Unite definendolo pieno di gestualità e privo di buon senso. Gheddafi ha subito chiamato a rapporto le quattro compagnie petrolifere americane presenti in suolo sul suolo libico, facendo presente che questi atteggiamenti potevano avere, queste critiche, delle ripercussioni sulle concessioni. Hillary Clinton ha mandato un sottosegretario a Tripoli a scusarsi, genuflettendosi davanti a Rais, insomma, e oggi la stessa Clinton è quella che parla di fare a pezzi il regime di Gheddafi e demolirlo e dargli il colpo di grazia. Quindi, insomma, tutti i paesi hanno fatto affari sul petrolio, sul gas e sulle armi con la Libia. Oggi questo dittatore probabilmente non serve più, quindi pragmaticamente si può anche dire non ci serve più come baluardo contro l'estremismo islamico. Abbiamo dei cavalli migliori in Libia, che poi questi dell'opposizione forse non li conosciamo neppure, perché è una rivolta questa che sembra non avere veri leader al momento. E comunque si è deciso di scaricarlo, ma sulle brutte figure l'Italia di certo è presente sul fronte delle brutte figure, ma in buona compagnia. Ecco, io volevo riallacciarmi per la conclusione, abbiamo pochissimi minuti per cui vi chiederei di essere concisi, ci sono ancora due domande, una che appunto si riallaccia a quest'ultima cosa che hai detto Gianandrea, sugli avversari di Gheddafi, chi sono gli avversari di Gheddafi? Prima si parlava delle tribù della Cirenaica e la Clinton ha recentemente dichiarato che gli insorti dell'est della Libia possono contare su ogni tipo di assistenza da parte degli Stati Uniti, ma ogni tipo di assistenza verso chi? Gli avversari hanno un leader, sono realmente organizzati o per il momento sono allo sbaraglio? Antonio? Ma io non so neanche chi siano, francamente, cioè, conosciamo un pochino la storia delle tribù e conosciamo anche il peso che hanno avuto le tribù, io sono convinto che la Libia abbia questa componente tribale prevalente, che non so se possa esprimere oggi un leader, come dicevo prima, sicuramente questo leader non si capisce se ci possa essere, se possa appartenere alle forze armate o possa appartenere a qualcos'altro. Non è chiaro neanche così il prossimo futuro, non un futuro più lontano, quindi è difficile anche dire chi possa in qualche modo essere leader. Nei giorni scorsi sono state molte speculazioni proprio sul fatto che in Libia sono tornati a far sventolare, soprattutto a Bengasi, la bandiera della monarchia libica, cioè prima della rivoluzione di Gheddafi nel 69, lasciando intendere che forse per tenere assieme tutte queste tribù e quindi escludere il rischio della creazione, per esempio, di qualche emirato di cui aveva parlato il ministro degli esteri Frattini, in fondo poteva esserci una soluzione istituzionale tra le ipotesi che poteva magari prevedere anche un ritorno a una forma, diciamo, istituzionale del passato, come quella della monarchia, però si tratta appunto di speculazioni. Oggi in realtà della Libia sappiamo pochissimo, sappiamo molto degli affari che fa Gheddafi con noi, che abbiamo fatto noi con Gheddafi, ma del paese reale, dei suoi equilibri sappiamo poco o niente, questa è la verità. Sì, Gianmaria? Gianandrea, scusami. Ci sono sostanzialmente d'accordo, aggiungo questo brevemente, che proprio l'assenza di un leader in questa rivolta, c'è un comitato del rivoluzionario del 17 febbraio che raccoglie un po' i vari gruppi, loro li chiamano movimenti di opposizione, che sono appunto gli esponenti tribali, e in questo vuoto di potere e del controllo della rivolta è chiaro che si possono inserire tutti, il figlio di Ray Idris che oggi è in esilio a Londra, così come ex generali che cercano di ritagliarsi un ruolo, e per questo sono sorpreso quando sento il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Hillary Clinton, dire siamo pronti a dare qualunque tipo di aiuto, ma non sappiamo in realtà a chi lo stiamo dando. Questo è un po' particolare, anche se ci sono indiscrezioni di fonte israeliana che dicono che già da venerdì scorso al fianco dei rivoltosi ci sarebbero consiglieri militari inglesi, americani e francesi a dare una mano ai ribelli. Però ecco, non c'è un referente politico, non c'è, si sta cercando di costituirlo in questi giorni in fretta, ma sull'onda anche della guerra, degli scontri con Gheddafi, e questo vuoto di potere, questa mancanza di leader nel movimento d'opposizione in un contesto tribale come questo mi ricorda altre situazioni, come ad esempio quella che fu, anche se era un paese diverso, la Somalia, nella quale tutte le molte tribù erano d'accordo nel fare la guerra al dittatore, allora era Siad Barre, siamo nel 1990, ma caduto il regime e le tribù hanno cominciato a farsi la guerra fra di loro e la Somalia sappiamo oggi in che condizioni è. Quindi una Somalia a due passi in mezzo al Mediterraneo, a due passi dall'Europa e dall'Italia, credo che non l'auspichi nessuno, e forse anche per questo alla fine, se ci sarà un intervento militare, vista l'impasse delle organizzazioni internazionali, forse lo faranno unilateralmente gli anglo-americani per dare il colpo di grazia a Gheddafi, magari con la scusa di fare un intervento umanitario per aiutare la gente che sta male in Cirenaico, che prende le bombe di Gheddafi sulla testa, e comunque per chiudere questa fase di instabilità e guidare mano per mano una nuova Libia a organizzarsi sotto forma, come forma di Stato. Avrei molte altre domande da porre ai nostri ospiti, però purtroppo mi fanno segni dalla regia che dobbiamo veramente chiudere, quindi non mi resta che ringraziare i nostri due ospiti, Antonio Ferrari e Gianandrea Gaiani, per il loro interessantissimo contributo alla trasmissione di questa sera. Grazie, buon lavoro ad entrambi e speriamo di riavervi presto ai microfoni di Giro di Boa. Grazie. Buonasera. Grazie mille anche grazie da parte a voi. E ovviamente buon proseguimento e buon lavoro ad entrambi. Grazie, arrivederci. Alessandra, non ci resta che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori alla settimana prossima.